Ambiente e Salute, in collaborazione con ISDE Italia, Associazione Medici per l'Ambiente. Bentrovato alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto da parte di Antonio Ceccato. Siamo qui per una nuova iniziativa che abbiamo costruito in collaborazione con l'ISDE e parleremo di ambiente e salute. Quindi nuova rubrica, naturalmente, per coloro che già mi conoscono come collaboratore della radio, non abbiamo cambiato orario alla trasmissione. Qui abbiamo naturalmente sulle frequenze di 88 e 70, 94 e 60 in FM la possibilità di ascoltare la trasmissione oppure di avere disponibile il podcast subito dopo. Per parlare di ambiente e salute abbiamo una figura istituzionale, una figura importante, che è quella del dottor Francesco Cavasin, che salutiamo. Grazie e ben trovati. Ringrazio l'emittente per l'occasione che ci è fornita di riflettere un po' su quello che è un tema assolutamente importante, che è l'ambiente e i rapporti di questo con la salute. Declinato questo dalla nostra associazione, che è appunto l'ISDE. Chi è l'ISDE? Allora, l'ISDE è un'associazione di medici per l'ambiente, un'associazione che è nata in Italia nel 1989 e che ha trovato poi negli anni successivi altre realtà in altri paesi dell'Europa e del mondo. Alla fine si è costituita proprio un organismo internazionale, che è proprio l'ISDE internazionale, con sede in Svizzera. E di che cosa si occupa l'ISDE? L'ISDE è un'associazione, come si diceva, di medici che hanno a cuore i rapporti delle eventuali malattie e patologie con l'ambiente, e questo viene anche declinato da quello che è il nostro codice deontologico dei medici, che all'articolo 5 cita in proposito che il medico deve promuovere la salute, e con questo si intende anche l'ambiente e la salute globale. Vado solo a una breve lettura di questo articolo perché è importante, ritengo, anche per l'attività o per questa iniziativa che andiamo insieme a vivere. Il medico, nel considerare l'ambiente di vita e di lavoro e i livelli di istruzione e di equità sociale quali determinanti fondamentali della salute individuale e collettiva, collabora all'attuazione di idonee politiche educative, di prevenzione e di contrasto alle disuguaglianze e alla salute, e promuove l'adozione di stili di vita salubri, informando sui principali fattori di rischio. Il medico, sulla base delle conoscenze disponibili, si adopera per una pertinente comunicazione sull'esposizione e sulla vulnerabilità ai fattori di rischio ambientale, e favorisce un utilizzo appropriato delle risorse naturali per un ecosistema equilibrato e vivibile anche dalle future generazioni. Questo è appunto il significato, il senso importante che sentiamo di dover testimoniare, ed ecco qui il tema che ci siamo dati proprio per questi incontri, cioè il ruolo e la testimonianza che può avere l'ISDE in questa partita. Siamo, come si diceva, medici. Io sono un medico di medicina generale, e però ci sono nell'associazione medici che hanno varie competenze. Non ci sono soltanto medici, ma anche professionisti che si occupano anche di altro, ma sempre in riferimento a quello che è proprio il binomio ambiente e salute. Questo perché? Perché abbiamo evidenze che molte malattie trovano la loro origine in cause ambientali. Se pensiamo per esempio all'accumulo degli inquinanti nell'aria, nell'acqua, nel suolo e nel cibo, abbiamo diversi esempi che testimoniano proprio queste relazioni importanti, strette, tra l'ambiente e la salute dell'uomo. Quindi, per una corretta diffusione delle conoscenze relative a questi problemi, abbiamo sentito forte questa necessità di essere presenti, di essere a fianco del cittadino per dare un'informazione scientifica corretta e che serva soprattutto a quello che è lo scopo principale, e che è quello di evitare di ammalarsi quando questa relazione è possibile evitarla ricorrendo alla prevenzione, ricorrendo al stile di vita corretto, oppure anche ad altre scelte che sono anche non solo individuali, ma che diventano anche scelte collettive e della comunità di cui andremo a parlare. Una domanda, dottore, una domanda più che una domanda è una considerazione. Mi sembra che la vostra iniziativa vada molto al di là del mero approccio scientifico per interferire in quello che è il processo sociale e politico, cioè nelle scelte che devono essere fatte, o sbaglio? In effetti, come il tema dell'incontro o della sequenza degli incontri che ci siamo prefigurati di svolgere, è proprio quello di dare una testimonianza che nasce dalla consapevolezza che ci deve essere da un lato una stretta conoscenza di quelle che sono le evidenze scientifiche che stanno a indicare e che stanno a sottolineare quanto sia stretto il legame tra fattori ambientali e la salute. E dall'altra parte c'è anche la necessità che ci sia una meditazione da parte dello professionista di quanto questo sia importante nel declinare poi quelle che possono essere scelte non solo individuali ma anche collettive dell'agire umano. E quindi andiamo oltre a quella che è la parte esclusivamente scientifica, ma pensiamo che sia utile e necessaria anche una maggiore responsabilizzazione non solo del professionista ma anche del cittadino. Ecco, una cosa anche importante che ho letto pochissimi giorni fa nella stampa quotidiana, la correlazione che è stata trovata da studi scientifici proprio recentissimi di problematiche di ambiente e salute non solo con i polmoni e con il cuore ma anche con il cervello. È una questione proprio di qualche giorno fa, lei mi può confermare questo? Sì. Sì, l'inquinamento, soprattutto l'inquinamento da polveri sottili, ci sono diverse segnalazioni in letteratura e scientifica, studi fatti anche di recente, che indicano come metalli pesanti siano stati ritrovati proprio negli studi che sono stati condotti sul materiale cerebrale. E poi ci sono anche delle altre segnalazioni che dicono quanto questo sia collegato con lo sviluppo di alcune forme degenerative come malattie importanti quali l'Alzheimer. E questo è sicuramente un fatto di rilievo che deve essere tenuto ben presente. Perfetto, allora noi ci fermiamo un attimo per un brano musicale, dando anche un'indicazione per eventuali richieste di ulteriori informazioni eccetera eccetera su info@bluradioveneto.it. Il brano musicale è Eppure Soffia di Pierangelo Bertoli. E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte perché è radioattiva. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Un giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario. E tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti, vorranno inclinare le stelle, la guerra tra i soli, i crimini contro la vita li chiamano errori. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Eppure sfiora le campagne, accarezza sui fianchi le montagne e sconfiglia le donne tra i capelli, corre a gara in volo con gli uccelli. Eppure il vento soffia ancora. Eccoci di nuovo in studio. Allora, volevo dare qualche indicazione, qualche istruzione, qualche, come dire, informazione di servizio. Questa nuova iniziativa, questa nuova trasmissione andrà in onda ogni giovedì alle 11.10 e in replica alle 18.35. Naturalmente ribadisco il fatto che chiunque avesse necessità di informazioni più dettagliate eccetera potrà fare capo al nostro solito indirizzo di posta elettronica info@bluradioveneto.it. ed ora la parola al nostro ospite. Grazie. E come per riallacciarmi sempre al, diciamo, al tema che abbiamo scelto per questa serie di incontri, c'è il ruolo, sì, e la testimonianza, come si diceva, dell'ISDE. L'ISDE, come abbiamo ricordato, non è nata ieri e ha tra i suoi padri fondatori delle persone che hanno segnato un po' anche quello che è lo storico e l'attuale proprio modalità di essere proprio dell'associazione. E mi preme citare proprio Lorenzo Tomatis per l'alta figura che questa persona, questo studioso, questo medico ha rappresentato e continua a rappresentare per tanti, per quasi direi la maggior parte dei medici che si riconoscono nell'associazione. E come si diceva, è stato un grande persona, un grande ricercatore, forse uno sicuramente tra i primi che ha cercato di studiare il grande problema della cancerogenesi transgenerazionale. Intuì cioè che la biologia molecolare poteva dare un importante contributo per una più precisa comprensione dei meccanismi coinvolti nella trasmissione del rischio di cancro tra una generazione e l'altra. Importante, sì. E si impegnò affinché gli studi epidemiologici venissero sempre affiancati gli studi sperimentali e perché entrambi gli approcci fossero considerati essenziali per identificare i rischi per la specie umana. Molto molto importante e quindi non scontato, chiaramente. Bene, quali altri punti salienti abbiamo nella carta programmatica? Perché qui si va naturalmente a incidere su quelle che sono le linee guida, diciamo, di questa iniziativa, di questo ente. Ecco. Sì, proprio partendo da questi presupposti, da questa realtà d'essere, proprio l'ISDE ha dalla sua da tempo una carta programmatica che indica in sostanza quali sono gli obiettivi che ci si pone come associazione per poi anche declinare quelle che possono essere le testimonianze dei singoli e quindi anche dei medici che ne fanno parte. Allora, per quanto riguarda l'ambito o il capitolo dell'energia, ISDE ritiene che ci sia la necessità di una rapida conversione dell'attuale modello di sviluppo, in larga parte fondato sul consumo di combustibili fossili e di risorse non rinnovabili. E quindi si richiede che vi sia un rapido incremento delle politiche di risparmio energetico, di ricerca e di diffusione delle energie variamente rinnovabili, il solare termico, il mine eolico, e programmi concreti di emancipazione rapidamente progressiva dalle fonti di energia fossile in particolare dal carbone e dal nucleare. Questo, diciamo, per sommi capi, cerco di essere, diciamo, su questi punti un pochino sintetico, perché poi buona parte di questi argomenti verranno ripresi specificatamente dagli contributi dei colleghi che mi seguiranno. Benissimo. Per quanto riguarda, per esempio, la partita o il capitolo della gestione dei rifiuti, ISDE sostiene che sia necessario un incremento delle filiere brevi del ciclo dei materiali di post-utilizzo, in modo che si possano attuare maggiori controlli e che l'intero ciclo dei rifiuti sia gestito in relazione alle peculiarità sociali ed economiche di micro aree territoriali. Quindi no ai grandi impianti, perché hanno un impatto sulla salute della collettività piuttosto importante. Per quanto riguarda poi l'acqua, si ritiene l'ISDE che le istituzioni debbano vigilare con politiche concrete di risparmio idrico e di salvaguardia e risanamento degli ecosistemi e dei bacini idrici utilizzati per l'approvvigionamento di acque potabili, miglioramento degli acquedotti e delle reti di distribuzione, imponendo anche la rimozione dei tratti che sono stati realizzati con tubature di piombo, famose, cemento, anche amianto. Amianto, chiaramente, sì. Per quanto riguarda invece l'aria, l'ISDE sostiene che si debbano rafforzare tutti gli interventi tesi a ridurre drasticamente la produzione e l'emissione in ambienti di anidride carbonica e di altri gas serra e di sostanze nocive e tossiche, con particolare riferimento al particolato fine e ultrafine, classificato di recente come cancerogeno certo per l'uomo, agli idrocarburi policiclici aromatici, ai metalli pesanti, al benzene e alle molecole di ossino simili, tutti agenti potenzialmente mutageni, epimutageni e quindi cancerogeni e teratogeni. L'ISDE Italia si impegna nel chiedere di estendere e potenziare in tutto il territorio nazionale europeo le reti di monitoraggio della qualità dell'aria con utilizzo delle migliori risorse tecnologiche disponibili. Ecco, questo è un fattore credo molto importante anche ai fini, come dire, di educazione. In certi casi si può dire, per altri casi si può dire del cliente, in questo caso si può dire del paziente, e naturalmente la moral suasion che ha il medico nei confronti del paziente può essere, a mio avviso, adesso sto buttando così una considerazione, a mio avviso può essere determinante nel creare una nuova coscienza ambientale nel paziente stesso e nel suo entourage, o sbaglio? Sì, dici bene, più che il paziente in questo caso noi vediamo come cittadino consapevole, che poi in certe situazioni purtroppo diventa paziente anche a causa di queste situazioni ambientali. Vero. In cui si trova a vivere e che diventano un fattore importante di rischio per la sua salute. Certamente, ecco qua. Prego. Poi l'altro capitolo importante per l'ISDE è la mobilità, cioè da tempo ci sta confrontando e si stanno analizzando come sia anche qui necessaria una rapida trasformazione dell'intero sistema dei trasporti che permetta una drastica riduzione dell'emissione in atmosfera dei prodotti della combustione, del petrolio, del cherosene, gasolio, benzine e gas. E questo naturalmente attraverso una progressiva riduzione del traffico automobilistico, non solo automobilistico, ma pensiamo anche aereo. Quindi una buona parte di emissioni di anidride carbonica è dovuta proprio al trasporto aereo, al traffico aereo. Si ritiene quindi necessario promuovere delle politiche per la riduzione, la razionalizzazione, e anche se diventa quanto mai necessaria anche una moratoria per la costruzione di nuovi aeroporti e l'ampliamento di quelli esistenti. E qui naturalmente abbiamo anche delle situazioni che sono proprio di casa nostra. Esatto. Naturalmente per addivenire a questo è importante che si implementino dall'altro lato anche i collegamenti ferroviari. Giustamente. Per quanto riguarda invece l'ambiente, l'ISDE ritiene, l'ambiente di lavoro, l'ISDE ritiene che ci sia da fare ancora molto per eliminare quei fattori di nocività che sono presenti nei luoghi di lavoro, e l'eliminazione per esempio delle cause di infortunio in modo speciale in quello edilizio. Perfetto, noi non possiamo altro che ringraziare il dottor Cavasin per la sua precisa esposizione e naturalmente incuriositi per eventualmente altri argomenti, approfondimenti vari che sicuramente saranno di grande interesse per il nostro auditorio. Grazie e alla prossima trasmissione. Ambiente e salute, in collaborazione con ISDE Italia, Associazione Medici per l'Ambiente.